Altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, come ogni settimana un'ora insieme per raccontare l'Europa delle persone, l'Europa delle storie, delle possibilità e delle opportunità. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, lo conoscete ormai, sono tante radio di tante nazioni diverse che cercano di raccontare un percorso comune. Euronetplus.eu, il nostro portale di riferimento, oppure il sito radio24.it. Se invece volete seguirci sui social network, chiocciola Euronetplus R24 o ancora chiocciola Federico Taddia, il mio account personale. Lì trovate tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Ogni settimana tante indicazioni, tante dritte. Questo è il modo, insomma, che abbiamo scelto per raccontare l'Europa. Un viaggio che oggi parte con un questionario. L'Europa non è solo politica, l'Europa non è solo economia. Tante volte all'Altra Europa parliamo di cultura, parliamo di antropologia, parliamo di altre facce, di altre riflessioni, di altri ragionamenti legati al vivere, al convivere europeo. E il progetto di cui andiamo a parlare entra proprio in questo ambito. Si chiama Recrire, un progetto finanziato dal programma Horizon 2020. Si tratta di un questionario, come viene percepito lo spazio dalle persone che lo abitano. Questo è uno dei cuori dell'iniziativa e ne parliamo con AIDA, che è l'Associazione Europea per la Democrazia Locale, che lavora a questo progetto in cooperazione con altre 15 università in Europa. Diamo il benvenuto ad Aldo Gianni, che è Project Manager di ALDA per Recrire. Buongiorno Gianni, buon sabato. Buongiorno, buon sabato anche a voi. Allora, un'analisi complessa quella che state svolgendo, qual è appunto la mission, come mai è che è stato scelto lo spazio come ambito di studio? Sì, allora vorrei cercare di inquadrare un po' questo questionario giustamente del quale ha parlato. Il questionario rappresenta in realtà soltanto una delle tappe di un progetto un po' più elaborato e complesso. Di 3 anni, finiamo quindi a fine aprile del 2018, e il questionario in realtà ha come obiettivo quello di identificare quali sono le rappresentazioni delle persone, quindi identificare il loro modo di pensare, il loro modo di sentire. Sì. Però, come dicevo giustamente, è soltanto una delle tappe di un percorso appunto di 3 anni, e l'obiettivo di questo progetto è capire che tipo di cambiamento, e se vi è stato un cambiamento, delle identità sociali in Europa, e in particolar modo della cultura alla base delle identità sociali. Perché questo, secondo il team di ricercatori appunto guidato dall'ALDA, ha indubbiamente delle ripercussioni anche nell'elaborazione delle politiche. Quindi se vi è stato un tale cambiamento, questo deve essere preso in considerazione nel momento in cui determinate politiche a livello europeo, nazionale, ma anche locale e regionale, vengono diciamo elaborate. Ma quando parlate di spazio, di territorio, di cornice vitale, diciamo, intendete la casa, intendete la città, intendete la regione, la nazione, qual è il sistema che analizzate principalmente? Ma diciamo diciamo che intendiamo più che altro la comunità locale all'interno della quale i cittadini e le persone diciamo sono collocate e interagiscono. Ripeto, in realtà lo spazio, l'analisi appunto dello spazio e come questo viene percepito è finalizzato a raccogliere quelle che sono diciamo le modalità di pensiero e di sentimento da parte delle persone, perché questo naturalmente, come dicevo, è soltanto una tappa che poi porterà ad uno studio molto più elaborato, al termine del quale saremo in grado di, come dire, raccomandare alle autorità politiche su diversi livelli diciamo di governance come elaborare certe politiche e in particolar modo come tener conto di quelli che sono i contesti appunto culturali nell'elaborazione delle politiche. Certo, ma che queste siano appunto efficaci. Nella costruzione, nella definizione di questa identità sociale c'è spazio per la dimensione europea o l'Europa è un qualcosa di lontano, di esterno, che non entra poi come elemento importante, tangibile nella quotidianità? No, certamente diciamo che il progetto è un ulteriore strumento che Alda utilizza nell'ambito della sua azione per portare l'Europa un po' più vicina ai cittadini. Quindi nel momento in cui certe politiche saranno analizzate, perché questo sarà il percorso successivo al questionario, sì. Ovvero l'analisi di certe politiche e anche politiche europee, come ben vede appunto i temi in cima all'agenda europea saranno appunto saranno trattati, saranno discussi appunto con i cittadini. Quindi il progetto rappresenta in qualche modo uno strumento ulteriore con il quale Alda lavora ormai da 15 anni nel cercare di diciamo superare quello che è il distacco e oggigiorno sempre più grande tra l'Europa e i cittadini. Grazie davvero ad Aldo Giani, www.aldalinettaeurope.eu per conoscere le attività di Alda e nello specifico anche il progetto RecriRe. Buon sabato e buon lavoro. Buon sabato, grazie. Noi ci fermiamo, un Europost-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Europa Creativa lancia un call per l'integrazione dei rifugiati. Avete un progetto, una piattaforma, un'idea che miri a favorire l'integrazione tra i rifugiati in Europa e la popolazione locale? Europa Creativa promuove una call nell'ambito dei Refugee Integration Projects 2016. Il settore culturale e creativo rappresenta infatti una preziosa opportunità per l'integrazione dei profughi in termini di comprensione culturale reciproca, dialogo interculturale e interreligioso, tolleranza e rispetto per le altre culture. Cultura e cinema possono colmare divari e migliorare l'armonia tra la popolazione del paese ospitante e i rifugiati. Per questo, tutti coloro che vogliano promuovere il proprio progetto sono invitati a inviare i dettagli entro il 28 aprile, seguendo le istruzioni indicate sul sito cultura.cedesc.beniculturali.it. L'altra Europa. There's a great crowd of tourists and they're coming down the street. Please, there's punch me brand new Dr. Martens on their feet. Past those of leather jackets, old bric-a-brac, Indian sunglasses or a Chinese bubble hat. Tramps stare in the window with the local butcher shop. Like a pack of wild dogs, they run off with the lot. In Primozilla, an angry man, his hair standing on end, shouts some rants in the ear of his imaginary friend. In Camden Town, I'll meet you by the underground. In Camden Town, the sun goes down in Camden Town. In Camden Town, you can do anything you want to. Ancora l'altra Europa, Camden, la parola chiave di questa canzone. Perché? Perché stiamo per andare in questo distretto della città di Londra per parlare di cosa? Per parlare ovviamente di Europa, del referendum, di Brexit, di quello che sta succedendo anche in queste ore dopo il referendum in Olanda, che sembra che sia stato l'ennesimo passo falso per l'Europa, un'Europa che piace sempre meno alla pancia della gente. E quindi stiamo seguendo un po' anche la preparazione, diciamo così, l'avvicinamento al referendum in inglese. Lo facciamo con alcune voci protagoniste a Londra. E oggi c'è con noi Lazzaro Pietragnoli, consigliere comunale di Camden, ma non solo, è stato anche sindaco della città londinese. Ciao Lazzaro, buon sabato, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti, buon sabato a voi. Un italiano sindaco a Londra, com'è questa storia? Beh, io lo dico sempre che vista la diversità e la multietnicità che c'è a Camden e a Londra in generale, uno si dovrebbe stupire che non ce n'era stato mai uno prima, non che ce ne sia arrivato uno nel 2015. Però è stata una bella esperienza, perché mi ha dato la possibilità proprio di rappresentare alle massima istituzione proprio questa diversità, che è una delle grandi caratteristiche. Diciamo che uno è prima un londinese e poi un inglese. Il tuo mandato è durato un anno, se non erro, se ho letto. Il mio mandato è durato un anno, perché dura un anno il mandato di sindaco nel sistema inglese. E adesso continui a fare attività politica? E adesso continuo a fare attività politica, sono il capogruppo laburista al Consiglio di Camden e in questo periodo sto facendo campagna elettorale perché l'Inghilterra rimanga in Europa. Ma una campagna elettorale ufficiale o informale? Beh, è una campagna elettorale di fondo informale, perché non è ancora cominciato il periodo ufficiale del referendum, che comincerà 4 settimane prima, quindi diciamo alla fine di maggio. Però in questo momento a Londra c'è invece la campagna ufficiale per il sindaco. Certo. E ovviamente i due temi si sovrappongono molto, per cui diciamo che si fa campagna per il sindaco, ma al tempo stesso si fa campagna anche per avere un sindaco che sia pro-europeo e che mantenga la città all'interno dell'Unione Europea, o all'interno di una visione europeista almeno. Lazzaro, in Italia arrivano i sondaggi, arrivano opinioni, arriva anche un po' quello che è il sentimento comune. Qual è invece lì la situazione da chi la respira tutti i giorni? Credo che sia abbastanza in linea con i sondaggi, nel senso che non è una situazione buona. C'è un mal di pancia storicamente radicato contro l'Unione Europea in questo paese, e c'è in questo momento un mal di pancia ancora più forte contro un'idea di Europa vista come un'Europa dell'élite, un'Europa delle grandi multinazionali, un'Europa che è più un'istituzione economica e non un'istituzione politica. E quindi questo si riflette molto nei sentimenti degli elettori. Certo. L'altro punto, che a me dispiace un po' dirlo, ma va detto, la campagna per il no, che è per l'uscita, per la Brexit, sta facendo una campagna elettorale molto più efficace della campagna per il sì, nel senso che la campagna per il no sta toccando alcuni tasti come quelli della democrazia, della sovranità, del controllo dei board, dei confini, che possono essere cose che non piacciono, diciamo, però vanno dirette a parlare a quelli che sono i sentimenti delle persone. La campagna per il sì invece sta facendo una campagna molto razionale, molto logica, molto basata su confronti, dati economici, ma di fondo non è molto efficace. Magari è una campagna più veritiera, meno populista, sì, però è una campagna meno efficace. Ci si sta immaginando un dopo referendum, cioè quelli che possono essere scenari possibili nel caso vincesse l'idea del Brexit? Non per fare, diciamo così, del terrorismo, sì, ma gli scenari possibili sono assolutamente non chiari e per certi aspetti, se vuoi, inquietanti, nel senso che la campagna per il no è divisa in varie anime, ognuna delle quali spiega che comunque non ci saranno grandi ripercussioni, che si potrà continuare con gli accordi economici. In realtà gli elementi che il governo ha diffuso, diciamo così, il report che il governo ha diffuso, dice che se dovesse passare il referendum si apriranno 2 anni di trattative per rivedere tutti gli attuali trattati che sono, certo, con i diversi paesi europei, e non è chiaro che cosa ne possa succedere anche per i cittadini europei come me che vivono da lungo tempo in Inghilterra. Alcuni dicono: no, se vivi da più di 5 anni il tuo status viene riconosciuto, per cui non ci sono problemi, le ristrettezze, le nuove imposizioni si varranno solo per i nuovi arrivati, però anche qui è un livello molto di incertezza, diciamo. Certo. Lasa, un'ultima domanda, ma faresti vita politica in Italia ora dopo l'esperienza inglese? Credo di aver acquisito dopo l'esperienza inglese alcune capacità, alcune competenze, sì, che in assoluto mi piacerebbe poter mettere a disposizione dell'Italia, ma l'idea di tornare in questo momento non fa parte dei progetti a breve termine, diciamo. Okay. In bocca al lupo per le tue attività, magari ci risentiamo dopo il referendum per commentarlo insieme. A disposizione, buon fine settimana a voi. Anche a te, grazie. Ciao, Lazzaro. Europost-it. European Investment Project Portal. La Commissione europea ha lanciato EIPP, European Investment Project Portal, il nuovo portale per gli investimenti in Europa, che nasce con lo scopo di far incontrare grandi progetti europei e potenziali investitori in tutto il mondo. European Investment Project Portal permette infatti ai promotori di progetti di un valore pari o superiore ai 10 milioni di euro di metterli in evidenza affinché possano trovare investitori interessati a sostenerli. Il portale ospita una banca dati con le schede informative relative ai singoli progetti e un elenco completo degli stessi anche sotto forma di mappa interattiva. Per tutte le informazioni cercate European Investment Project Portal sul sito della Commissione europea ec.europa.eu. Di apprendere, l'educazione degli adulti nel carcere, questo è il titolo di una 2 giorni che si è tenuta a Napoli proprio per ragionare a livello anche europeo su quella che è l'educazione in carcere, educazione in carcere, le opportunità, le criticità, le contraddizioni, un seminario nazionale di monitoraggio promosso da Erasmus Plus in collaborazione con Unità Nazionale EPALE, si parla quindi di formazione degli adulti, è la piattaforma per l'apprendimento degli adulti che già vi abbiamo presentato, ec.europa.eu/EPALE, per conoscerla meglio. Con noi proprio dell'Unità Nazionale c'è Martina Blasi. Ciao Martina, buon sabato. Buongiorno a voi. Allora, 2 giorni importante per insomma mettere l'attenzione su di fatto una situazione poco nota, che è quella dell'educazione, che è quella della formazione in carcere. Quali sono stati i punti salienti dei vostri ragionamenti? EPALE, appunto, in collaborazione con l'agenzia Erasmus Plus, che opera all'interno di Indire, ha organizzato questi 2 giorni per parlare di educazione degli adulti in carcere. Parlare di educazione degli adulti in carcere significa interrogarsi sul senso della detenzione, quindi su come garantire a un detenuto un percorso di crescita personale a tutto tondo, come farlo per far sì che il tempo che il detenuto deve permanere rimanere in carcere non sia tempo perduto, sia tempo appunto dedicato ad una crescita personale, quindi educazione, formazione in ambito anche non formale, e quindi tutto ciò che poi sono le criticità del sistema, tutto quello che invece sono le realizzazioni positive che sono state fatte nelle diverse realtà penitenziarie d'Italia. Che ricordiamo, sono oltre 200 i docenti impegnati nei carceri, più volontari, collaboratori. Esatto, a Napoli si sono riunite oltre 200 persone provenienti per la maggior parte docenti, volontari, dalle associazioni, dalle amministrazioni penitenziarie, da tutta Italia, da tutte le realtà penitenziarie d'Italia. Quindi è stato veramente un'occasione di confronto e di incontro fra realtà diverse che poche volte hanno l'opportunità di incontrarsi e di scambiarsi opinioni e consigli e fare squadra, unirsi per un mestiere così difficile. Con una visione anche europea, nel senso che avete avuto anche riferimenti e confronti assolutamente europei. Assolutamente sì, non manca mai lo sguardo all'Europa, infatti sono stati presenti Alan Smith, fondatore del programma Grundvig, il programma europeo appunto che tanto ha operato nell'educazione in carcere, Annette Becker dell'Associazione Europea per l'Educazione in Carcere, quindi per un confronto a livello europeo, e per non dimenticare sono stati anche presentati i progetti europei in corso e passati sull'educazione in carcere che sono stati finanziati grazie proprio ai programmi LLP precedentemente e adesso Erasmus Plus con i partenariati strategici. Di cui parleremo sicuramente nelle prossime puntate dell'Altra Europa. Grazie davvero, ricordiamo ancora erasmusplus.it per avere tutte le informazioni al riguardo. Un grazie a Martina Blasi, Unità Nazionale PAL Italia. Ciao Martina, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci, grazie. Ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. L'Altra Europa. To be a different man, thou may change me, but I can't trace time. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa, @ Federico Taddia, Twitter e Facebook per ritrovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, oppure sul nostro sito radio24.it da dove potrete poi scaricare il podcast. Parliamo di opportunità, parliamo di Europa, parliamo di imprese sociali, lo facciamo attraverso un progetto europeo dedicato ai giovani imprenditori sociali. Si chiama Elise, ne parliamo con Marco Traversi, amministratore delegato di Project Hyad, che è il partner italiano di questo progetto che vede 6 paesi europei coinvolti. Ciao Marco, buon sabato e benvenuto all'Altra Europa. Salve, buongiorno a tutti. Allora, diamo subito il contesto. Definizione di impresa sociale. Che cos'è e perché è importante per l'Unione Europea? Beh, dunque, l'impresa sociale la possiamo definire molto rapidamente come un'attività imprenditoriale a tutti gli effetti che però unisce all'obiettivo economico l'obiettivo di realizzare un impatto sociale positivo sulle comunità nelle quali opera e rispetto ai cittadini di questi territori. Mm-hmm. Ma sono imprese di nuova concezione, definiamole così? Beh, dunque, per quanto riguarda l'Italia è attualmente in discussione e in via di approvazione la nuova legge di riforma sull'impresa sociale, che quindi va a creare un quadro normativo anche nuovo e più completo rispetto al passato. Per quanto riguarda l'Europa, l'impresa sociale, la social entrepreneurship, è stata messa al centro della nuova programmazione comunitaria nella quale ci stiamo muovendo adesso fino al 2020, ed è uno degli elementi fondamentali di questa programmazione, quindi molte risorse comunitarie sono destinate a questo. Marco, ma è uno di quegli ambiti a cui paradossalmente la crisi ha fatto bene perché ha risvegliato nuove energie, nuove sinergie, nuove creatività? Beh sì, in realtà tutti i dati per quanto riguarda l'Italia ci dicono che l'impresa sociale è uno dei pochissimi settori che dal 2008 ad oggi ha aumentato sia la propria dimensione economica che il numero di occupati. E questo, se vogliamo, è quasi ovvio, nel senso che l'aumento delle problematiche sociali genera per certi versi nuove opportunità di mercato per imprese che si occupano di questi problemi, e anche gli spazi che sono stati lasciati dalle minori risorse pubbliche che possono essere investite in questo campo lasciano la possibilità alle imprese sociali di occuparsi in maniera più ampia di questi problemi, quindi sicuramente è un settore in crescita. Ecco, in questa cornice nasce Elise. Di cosa si tratta? Elise nasce da un partenariato internazionale che ha ottenuto un finanziamento del programma Erasmus Plus della Commissione Europea per confrontare dei processi di incubazione, di accelerazione dedicati alle imprese sociali che una serie di soggetti in giro per l'Europa stanno già facendo da tempo. E con questo progetto si confrontano le metodologie di supporto e appunto di incubazione che questi soggetti stanno attualmente realizzando per arrivare alla fine ad una sorta di metodologia condivisa, uno standard ottimale per sostenere le imprese sociali, in particolar modo quelle realizzate da giovani. Quindi insomma anche l'idea, come spesso accade, di evidenziare buone pratiche, metterle in circolo in modo che possano essere anche replicabili. Ci vuoi dare i siti di riferimento per chi volesse maggiori informazioni? Sì, si può andare sul nostro sito che è www.pja2001.eu. Sì. Oppure si può andare sul sito del capofila del progetto che è www.gisen.global. Perfetto, e lì trovate tutte le informazioni del progetto Elise. Un grazie a Marco Traversi, buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Europa con un'altra iniziativa assolutamente attuale e contemporanea, si parla di rifugiati, si parla di università, si parla di Europa. Capiamo che cosa è questa Refugees Welcome Map, lo facciamo con Jessica Carter, portavoce, se non erro, dell'Associazione delle Università Europee. Jessica, ciao e benvenuta all'Altra Europa. Grazie mille. Jessica, intanto, che cos'è l'Associazione delle Università Europee? Allora, noi rappresentiamo le università in Europa, abbiamo più di 800 membri in 47 paesi, quindi siamo un'association delle varie università. Mm-hmm. E tu ti occupi della comunicazione, e che cos'è questa mappa che avete promosso, che avete lanciato? Allora, la mappa è uno strumento interattivo che serve innanzitutto come fonte di informazione e speriamo anche come fonte di ispirazione. È un punto di condivisione di idee su come aiutare i rifugiati che cercano assistenza dal settore universitario, ma è anche un modo per sviluppare collaborazioni tra i vari attori che cercano partner e soluzioni, e per collaborazione in materia politica, particolarmente con i colleghi della Commissione europea. La mappa nasce dal fatto che molti rifugiati che stanno arrivando in Europa sono studenti, ricercatori e accademici che hanno dovuto lasciare fare le loro attività. E le università in Europa stanno rispondendo a queste persone tramite diverse iniziative. E quindi la nostra associazione ha collezionato le loro informazioni e abbiamo creato la mappa per mettere le iniziative in una vetrina interattiva. Quindi l'idea è di permettere all'università e il settore in generale di avere una risorsa per far vedere che cosa stanno facendo e per vedere che cosa stanno facendo gli altri per aiutare i rifugiati nel nostro settore. È un luogo per condividere idee o quello che noi chiamiamo in inglese good practices, e speriamo che la mappa può servire anche come fonte di ispirazione per le università che devono ancora sviluppare nuove iniziative. E poi questo è molto importante, la mappa può servire anche ai rifugiati stessi per vedere quali iniziative esistono nei paesi che li ospitano, e questo è un chiaro vantaggio della mappa. Allora, ricordiamo che l'Associazione delle Università Europee coinvolge oltre 850 istituti, 47 paesi nel mondo, se non erro. E, Jessica, escono anche, adesso al di là della mappa, che è comunque lo strumento visibile, immagino che escano anche tante riflessioni, tanti contenuti, tante elaborazioni intellettuali, visto che l'ambiente è quello universitario. Tutto questo bagaglio di conoscenze diventa poi anche strumento politico, viene passato a chi deve prendere delle decisioni o chi deve creare delle nuove politiche legate ai rifugiati. Vabbè, è chiaro che il nostro lavoro è anche un lavoro di advocacy, e noi, essendo un'associazione che rappresenta le università, cerchiamo di promuovere le idee e gli interessi dei nostri membri, questo è chiaro. E quindi tramite progetti come questa mappa noi cerchiamo di aiutare sia i nostri membri dell'università che le persone, per esempio in questo caso i rifugiati che cercano aiuto dal nostro settore. E per esempio in questo caso noi abbiamo creato un survey, in inglese si chiama survey, in italiano un sondaggio, sì, interattivo sul nostro sito, dove l'università e altre istituzioni e organizzazioni del settore possono rispondere a una breve serie di domande sulle loro iniziative. E questo sondaggio è ancora aperto e rimane aperto, e tutte le organizzazioni del nostro settore in tutto il mondo che lavorano con i rifugiati sono invitati a partecipare. E poi, dopo aver compiuto il sondaggio, le informazioni vanno sulla mappa e l'utente può cliccare la mappa e utilizzare un sistema di filtri per cercare le iniziative. Poi la mappa è aggiornata in continuazione e ci sono più di 200 iniziative. E in Italia, per esempio, ce ne sono 10. Mm-hmm. E poi chiaramente, cioè, gli esperti qui a EUA che si sono dedicati a questo progetto sperano di dimostrare in modo interattivo come il settore universitario in Europa sta rispondendo a questa crisi, e speriamo inoltre che le iniziative possano servire come esempio ad altri e ispirare nuove iniziative. La mappa aiuterà i rifugiati che hanno dovuto lasciare i loro studi e la loro ricerca oppure le loro carriere nel mondo accademico di poter continuare. E poi, tornando alla domanda iniziale del policy, noi speriamo anche di dimostrare all'Unione Europea e ai individui, governi e pubblico come le università stanno rispondendo a questa crisi e come stanno dialogando su come migliorare la situazione. E speriamo che questa mappa sta in vista e che speriamo di ricevere risposte positive da parte loro. Tra l'altro sono iniziative assolutamente concrete, non ci sono corsi per i rifugiati, ma ci sono anche indicazioni molto pratiche, anche solo per esempio per trovare reti di appoggio o la sistemazione negli alloggi universitari. Ricordiamo il sito per interagire con la mappa, che è www.eua.be. Grazie davvero a Jessica Carter, buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Adesso un Euro Post-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'altra Europa, ci avviamo alla conclusione della puntata di oggi. Prima però vi voglio ricordare il sondaggio lanciato anche da Radio 24 in collaborazione con Euronet Plus. Lo trovate sul sito radio24.it, il Big Crunch 2016 La domanda, ne abbiamo già parlato anche oggi, è perché l'Europa è diventata così impopolare? Si cercano le cause, si cercano le opinioni, si cercano le idee dei cittadini e lo si fa fino al 27 aprile, appunto con questo grande e importante sondaggio popolare a livello europeo, è il Big Crunch 2016, radio24.it, da lì trovate il link e da lì potrete dare e dire la vostra opinione. Questa è l'Europa impopolare e poi invece c'è quella che piace a noi, che è l'Europa delle opportunità, l'Europa dei progetti. E come spesso facciamo, chiudiamo l'appuntamento con l'Altra Europa parlando di cultura. Oggi un progetto molto particolare, si chiama Mend the Gap, vede anche l'Italia coinvolta, ma il focus è in Croazia per studiare i siti paleolitici. Ne parliamo con Giovanni Boschian, antropologo dell'Università di Pisa, che è ovviamente coinvolta nel progetto. Buongiorno Boschian, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Come mai si va in Croazia? Cosa succede? Dunque, si va in Croazia perché è un bel paese dove tutti vanno a fare le vacanze, ma non è questo chiaramente il nostro focus. Io sono arrivato in zona verso la metà degli anni 90 attraverso contatti che avevo con l'Università di Cambridge. Sì. E ho continuato a lavorare con i colleghi croati e inglesi. E da questo poi sono nate collaborazioni, sono nati articoli, sono nate varie attività e ultimamente il successo, un po' insperato come succede spesso in questi casi, di questo progetto. È un progetto twinning collegato alla serie dei grant Horizon 2020, H2020, come li chiamiamo amichevolmente. Quindi è un progetto particolare, vero? Perché è una triangolazione che è un po' il cuore del programma Twinning, che è quello di far interagire tra loro e in più però... Più che per la ricerca, che ovviamente c'è perché sennò non avrebbe senso, è un progetto per fare rete, e creare una rete di collaboratori scientifici che siano poi performanti nella richiesta di nuovi progetti futuri, sempre nello schema H2020. Mm-hmm. E, ovviamente in questo caso capofila deve essere un ente della Croazia, in quanto la Croazia è stata sottoperformante negli anni passati nella richiesta e ottenimento di grant europei. E, all'interno del progetto questo ente o gruppo di enti, come in realtà è stato poi, si deve consorziare con almeno altri due enti di altri due altri paesi che siano però stati performanti dal punto di vista. Ok, insomma, questo per garantire, esatto, per garantire anche la qualità, ovviamente, della ricerca. Ora, chiaramente noi non abbiamo niente da insegnare ai colleghi croati, che sono degli scienziati di ottimo, più che ottimo livello. Più che altro loro si trovano organizzati in una specie di congeri e costellazioni di piccoli enti, che chiaramente hanno poi poco peso dal punto di vista del numero delle pubblicazioni, dei risultati che possono ottenere. E quindi loro hanno costituito un consorzio che si chiama CREAMA, no? Un po' la creme della creme, sì, della ricerca croata. E invece noi, come Università di Pisa e Università di Cambridge, partecipiamo direttamente al progetto. Questa è tutta la parte burocratica che comunque, insomma, i progetti lo richiedono, a volte dico anche per fortuna, perché sono anche insomma garanzia di trasparenza e di qualità, a volte ci si perde, però insomma si sta lavorando anche per trovare un equilibrio tra qualità di questa preparazione dei progetti e fattibilità. E di fatto cosa andrete a fare? Di fatto noi andiamo a organizzare una serie di attività sia sul campo che all'interno dei dipartimenti, in cui i colleghi croati verranno a visitare noi a Pisa e i colleghi inglesi a Cambridge e viceversa. Su questo poi organizziamo anche dei field workshop, cioè delle attività di campo, in cui dovremmo partecipare tutti. Questo è il senso del mend the gap, del tappare il buco. Mm-hmm. Perché intorno all'archeologia ruota una serie di discipline oggi anche molto complesse, no? E una volta l'archeologia era un professorone con una gran pancia, la barba bianca adagiata sulla pancia, che guardava un sasso, guardava un osso, un pezzo di ceramica. In realtà oggi è molto diverso, perché facciamo uso di tecniche avanzate di fisica per la datazione, per l'analisi chimico-fisica dei materiali. Ovviamente poi facciamo uso anche delle tecniche di sequenziamento del DNA per lo studio delle popolazioni dell'antichità. E chiaramente noi, io sono un geologo, anche se sono al Dipartimento di Biologia, e non ne so tanto di quello che sanno i biologi dal punto di vista dello studio del DNA e viceversa. A questo poi si uniscono quelli che studiano le faune del passato, le flore attraverso lo studio dei pollini, eccetera. Quindi noi cerchiamo di mettere insieme tutti e, diciamo così, in un certo senso costringerli a percepire quello che fanno gli altri. Ma in un ambiente inesplorato, nel senso che non sono state fatte poche ricerche in questa zona dove andrete a operare? Esattamente, il versante orientale dell'Adriatico è stato sede di ricerche anche nel passato da parte dei colleghi croati. Inizialmente tutto questo è andato, diciamo così, poco pubblicato o poco visto dalla nostra parte, perché ne ha pubblicato prevalentemente in sloveno e in serbo-croato. Oggi chiaramente la scienza si è molto più aperta anche da loro, la situazione è molto diversa dal punto di vista ambientale, diciamo così, politico. Per cui abbiamo cominciato a vedere che c'è veramente un notevolissimo potenziale per ampliare le ricerche in questa direzione. E deve pensare che, diciamo così, intorno a 18.000 anni fa il mare Adriatico, come lo vediamo oggi, non esisteva. Era una gran pianura che arrivava praticamente da Pescara fino a Trieste. Mm-hmm. E questo deve essere un posto meraviglioso, dove si muovevano mandrie di branchi di cavalli, mandrie di bisonti, i mammut, che erano l'obiettivo principale della caccia di questi personaggi. Ovviamente tutto questo ha creato poi tutta una possibilità di movimento, non soltanto di esseri umani, ma anche di faune, tra l'area balcanica e l'area italiana. Questo è anche testimoniato da materiali particolari che potevano raccogliere da una parte o dall'altra, e di cui noi siamo poi in qualche maniera in grado di definire la provenienza. E questo poi naturalmente si deve poter riflettere anche nel genoma, sia degli esseri umani che degli animali. Mi sembra uno scenario assolutamente affascinante e intrigante. Giovanni, direi che ci torniamo magari nei prossimi mesi a progetto anche avviato, così insomma è suggestivo andare a raccontare l'Europa che era. Noi di solito raccontiamo l'Europa che è, l'Europa che potrebbe essere, ma anche l'Europa che è stata. Mi sembra che sia un bel viaggio nel tempo utile per capire chi siamo oggi. Buon lavoro a te e a tutto grazie. Il tuo team. Grazie. Molto grazie anche a voi. Giovanni Boschian dell'Università di Pisa, coinvolto nel progetto Mend the Gap, con il quale chiudiamo questa puntata. Un grazie a tutta la squadra, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Filippo Aureggi oggi alla parte tecnica. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo. Fatevi vivi o sui social @FedericoTaddia oppure alla nostra email l'altraeuropa@radio24.it. ancora ciao. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.